Se a Milano una persona ti dice che a uno dei suoi cari al fate bene fratelli, tutti sanno che è un ospedale. E in effetti a Milano ci sono, se non ricordo male, 3 poli ospedalieri. Uno solo ha il nome di Fate Bene Fratelli, gli altri 2 però sono stati messi in piedi, uno resta ancora privato, l'altro resta, credo, della società civile, messi in piedi dai Fate Bene Fratelli, che è un ordine di frati tuttora esistente, che tuttora nel mondo, a cominciare dalla Spagna, dove è nato, fondato da San Giovanni di Dio, hanno i loro ospedali. Perché la Chiesa da sempre, prima ancora che la società riuscisse a organizzarsi con l'ospedale, c'è ancora qualche ospedale con scritto ospitale, con l'H davanti, perché è una delle opere di misericordia corporale, ospitare i pellegrini, curare i malati. La Chiesa ha sempre avuto una grande tradizione da questo punto di vista, e anche se per fortuna la società civile se n'è fatta carico nei paesi più evoluti, se voi andate nei paesi ancora in via di sviluppo, i missionari, le missionarie hanno tantissimi presidi ospedalieri, dalle maternità a veri e propri ospedali. C'è gente che si è fatta santa, ma anche ai nostri giorni, sapete, se dico Marcello Candia, non so se lo conoscete, e poi la gente dice che non ci sono più i santi al giorno d'oggi, per forza non li conoscete. Marcello Candia l'ho conosciuto anch'io. Era un industriale chimico che ha venduto la sua industria per andare a Macapà, nel pieno della foresta brasiliana, a fondare un ospedale. C'è stato il dottor Schweitzer, protestante, cristiano, che in nome del suo cristianesimo è andato in Africa, ma la vita è piena. Oggi ricordiamo San Riccardo Pampuri, un figlio della terra lombarda, è nato in provincia di Pavia, ma ai nostri giorni, alla fine del 1897, fu un brillante studente, si laureò in chirurgia e medicina e poi svolse il suo compito di medico condotto a Murimondo, qui vicino, dove c'è oltretutto una bellissima chiesa abbaziale che varrebbe la pena di andare a visitare, Murimondo. E si è fatto santo facendo il dottore. Se percorriamo la storia della santità, quante suore sante facendo le infermiere, per esempio nei lebbrosari, o negli istituti per anziani. Per questo io ho tanta stima, oltre che dei sacerdoti e delle suore, anche di altre 2 categorie di persone, gli insegnanti e i medici, perché ritengo che siano dei lavori molto vicini al compito sacerdotale, in cui tu dai del tuo alla gente. Certo, il medico, il chirurgo si fa pagare giustamente, deve vivere la sua vita, ma io che conosco tanti medici e tanti chirurghi dico: vi auguro di conoscere un po' di più anche a voi cittadini la vita loro, anche se qualche medico mi dice: Don Ambrogio, tu ci stimi troppo, perché dovremmo veramente avere questo spirito. Ma io ne conosco di persone che comunque, tra tutti i vari lavori, tra quello di stare in banca a contare i soldi, a quello di stare in una pompa di benzina a vendere la benzina, a quello di fare il medico, c'è un po' di diversità, credo. Perché tu in questo caso tu operi con delle persone, e se sei un buon cittadino, se sei un buon medico, se sei un buon cristiano, puoi farti santo. La santità c'è ancora il giorno d'oggi, amici. Quanta gente nel campo dell'assistenza clinica, medica, assistenziale, quanta gente la Chiesa ha espresso di santi. L'ultima, la penultima, Madre Teresa di Calcutta. Concludo con una battuta attribuita a lei. Un giornalista della BBC va a intervistarla e le dicono che è in corsia a medicare i lebbrosi, e dicono che la carne del lebbroso si putrefà all'odore nauseabondo del cadavere. E allora questo giornalista entra in corsia e vede questa umile suora che è lì chinata a medicare un piede che incancrena, e lui quasi con fastidio si tira indietro e dice: «Ah, madre, ma io non farei questo mestiere neanche per 1 milione di sterline. E lei, senza neanche guardarlo in faccia, gli dice: «Beh, per 1 milione di sterline non lo farei nemmeno io».